Siamo in collegamento con Martin Köhler, direttore programmi della campagna Riforma Banca Mondiale, la quale ha fatto uscire un documento, The League of Gentlemen, che denuncia i rapporti ambigui tra la Banca Europea degli Investimenti e le altre istituzioni europee, tanto da classificare la stessa Banca per gli Investimenti Europei tra le ultime istituzioni comunitarie in termini di trasparenza. Ci vuole parlare di questo protocollo che è uscito e delle vostre iniziative? Noi ci siamo occupati della Banca Europea di Investimenti, una delle banche meno conosciute in tutto il mondo, ma la più grande banca pubblica per lo sviluppo. Nel quadro della Costituzione Europea dell'anno scorso, che ha visto una forte domanda da parte di tutti i cittadini europei di avere più trasparenza e più democrazia nelle istituzioni europee, in questo quadro abbiamo scoperto quasi a caso che la Banca Europea per gli Investimenti è una delle organizzazioni della famiglia delle istituzioni europee che è meno controllato e meno accountable alla volontà politica europea. In questo contesto, questo studio fa una denuncia e dice: noi siamo molto felici che tramite una BEI abbiamo soldi a disposizione per motivi di un sviluppo sostenibile non soltanto in Europa ma anche in tutto il mondo, ma dobbiamo essere più sicuri che i soldi pubblici che sono spenti, che sono dati da questa BEI, veramente vanno nella direzione giusta e sostengono le iniziative che si sono in tutti i paesi del mondo. In questo contesto abbiamo scoperto che la BEI dice spesso che non è una banca a sé stante, ma segue soltanto la politica europea. Invece, quando si va a Bruxelles, nelle istituzioni europee, si sente: la BEI non lo conosciamo, è una cosa che non ci preoccupa. E allora abbiamo scoperto che c'è un grande gap, un grande buco nero in cui la BEI può fare quello che vuole. Che cosa intendete come un esempio concreto di non trasparenza? Per esempio abbiamo scoperto che la BEI ha dato un mucchio di soldi all'aeroporto di Lussemburgo, cioè la banca E in Lussemburgo, per sviluppare una flotta di cargo per Air Luxembourg. Normalmente i soldi della BEI dovrebbero andare ai regioni bisognosi, cioè non si può dire che Lussemburgo ne ha bisogno di questi soldi. Nella stessa direzione abbiamo scoperto che la BEI finanzia Volkswagen in Brasile, Messico, Argentina. Certamente la Volkswagen non è una delle corporations che veramente hanno bisogno di soldi pubblici. Lo stesso anche IKEA viene, questo grande catena di mobili, viene sostenuto da soldi pubblici della BEI. Invece in questo momento abbiamo molto bisogno di un forte sostegno finanziario ai paesi nuovi, ai nuovi membri dell'Unione Europea, ma anche per quanto riguarda i raggiungimenti degli obiettivi dello sviluppo del millennio in tutto il mondo. Allora con un po' più di trasparenza si potrebbe anche prevenire che la BEI fa progetti in zone e per soggetti che non lo hanno bisogno. Come si può fare un'azione di lobbying, di pressione, in modo che la BEI faccia veramente quello per cui è proposta, comunque finanziare progetti di sviluppo sociale e ambientale? Con questo studio la nostra strategia si muove un po' via, diciamo, dalla strada del denuncio pubblico, proprio a livello delle istituzioni europee, a Bruxelles. Noi cerchiamo di ottenere un certo consenso a livello della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, prendere più atto sullo status legale della banca e le sue operazioni. In questo senso ci servono dichiarazioni del Parlamento Europeo, ci serve una politica più attenta di trasparenza della Commissione Europea, e perciò questo studio quasi è un materiale di prima importanza soprattutto per i policy makers a Bruxelles.